as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui ad Il Pane nelle Rose. Oggi torneremo di nuovo a parlare della vicenda della Magneti Marelli di Crevalcore. Abbiamo intervistato Mimmo Lisi, delegato della FIOM, una puntata bella perché ci racconterà degli sviluppi, ne abbiamo già parlato, di quello che è successo ai Magneti Marelli ultimamente, c'è un nuovo compratore, c'è stato un ottimo accordo. Io vi lascio subito a un pezzo bellissimo. Il Pane nelle Rose sta cambiando, è sempre più musica alternativa, sempre più musica ricercata. In questo caso abbiamo Felix Laband. Troverete sulla pagina del Pane nelle Rose, andate a cercare tutte le indicazioni per capire i pezzi musicali che mettiamo con i video. Io vi invito a seguire la pagina, anche nella mia pagina personale metterò il post in cui potete trovare anche il link per chi perde la puntata in podcast. Ecco, andiamo subito a Felix Laband, un pezzo bellissimo, e poi sentiamo Mimmo Lisi, e senza conclusioni, perché Mimmo Lisi spiegherà lui tutto e farà lui le conclusioni. Ok, a dopo. I'm not sorry for anything. Anything. Anything. Anything. Anything. Thank you. Eccoci qua, Mimmo. Ciao, siamo di nuovo qui per la nuova puntata e anche oggi parleremo di ex Magneti Marelli, che in questo caso stiamo sempre andando avanti verso la completa risoluzione del problema. Sui giornali abbiamo letto di questo imprenditore, ne avevamo già parlato con te nella puntata precedente. Adesso si sta organizzando per il trasferimento della nuova proprietà. Volevamo che tu ci raccontassi un po' tutti gli ultimi accadimenti, gli ultimi mesi e anche come ci sei arrivati. Fai anche un riassunto per quelli che insomma non conoscono bene la storia e spiegaci anche di come si sta sviluppando la situazione, insomma, di questo nuovo imprenditore. Adesso possiamo fare il nome, possiamo spiegare insomma tutto e di come si sta sviluppando il trasferimento di proprietà. A nome mio, ma soprattutto a nome di tutti i lavoratori della Marelli, volevo ringraziare sia te Ottaviano che tutta la redazione dell'emittente radiofonica che il tuo programma rappresenta, per l'opportunità che in questi mesi ci avete dato raccontando la drammatica storia dei lavoratori Marelli, che al momento potrebbe concludersi con un lieto fine. Ricordo a tutti i radioascoltatori, la nostra storia nasce il 19 settembre del 2023, giorno in cui a Roma, a seguito di un incontro nazionale che Marelli Italia aveva programmato per annunciare tutti i programmi industriali di tutti gli stabilimenti italiani, dichiarava che a seguito di perdite di fatturate degli ultimi tre anni dell'ordine di 4, 5, 6 milioni di euro, la Marelli aveva deciso di chiudere lo stabilimento di Crevalcore. Non vi nascondo che in quel momento ho realizzato in parte quello che c'era stato annunciato, perché le motivazioni erano inventate, perché negli anni precedenti ci era stato comunicato che lo stabilimento chiudeva in perfetto equilibrio finanziario, perché mai in più di 100 anni di storia Marelli aveva chiuso uno stabilimento in questa maniera, perché non eravamo preparati a questa notizia, visto che problemi lavorativi importanti non ne avevamo. Infatti nell'ultimo anno di lavoro non avevamo fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. Come rappresentante dei lavoratori in quel momento mi sono sentito di dare ai vertici Marelli una risposta abbastanza breve e precisa, e quindi che stavano montando delle falsità sullo stabilimento di Crevalcore e che per noi quelle false dichiarazioni corrispondevano a un atto di guerra nei nostri confronti. Infatti gli ho detto che dallo stabilimento non uscirà neanche un bullone, frase diventata motta dell'avvertenza. Devo dire che nel viaggio di ritorno da Roma ho realizzato, sia come delegato ma anche come lavoratore, la drammaticità che quell'annuncio voleva significare. Da subito è montata in tutti i lavoratori la rabbia, per alcuni lo sconforto, ma il sentimento più diffuso era il tradimento di un'azienda che ci aveva usati e buttati via solo per coprire i loro loschi giochi finanziari. Come lavoratori ci siamo subito compattati ed abbiamo dichiarato sciopero ad oltranza. Non ho problemi a dirvi che abbiamo iniziato questo difficile percorso perché non avevamo alternative. Ed è normale pensare che inizialmente siamo stati individualisti, abbiamo pensato a difendere il nostro posto di lavoro, perché alimentati da rabbia e disperazione. Ma con il tempo, grazie all'aiuto dei lavoratori e delegati di altre fabbriche, che ogni giorno venivano ad aiutarci, ci siamo sentiti più forti. Infatti volevo soffermarmi su questo momento dell'avvertenza, che è stata secondo me determinante per il proseguo della lotta. Per i primi 45 giorni continuativi dello stabilimento non è uscito neanche un bollone, grazie alla nostra determinazione e alla presenza di tantissimi delegati e lavoratori di tutta l'Emilia Romagna, che si sono alternati ogni giorno al presidio. Sì, perché ogni giorno era presente al picchetto una delegazione FIOM diversa di ogni provincia emiliana, che si alternava per farci capire che non eravamo soli e l'avvertenza non era più locale. In questo cammino della dignità abbiamo capito il significato di comunità. Grazie a un intero territorio che si è schierato al nostro fianco da subito, inondandoci dalla solidarietà che è nel DNA di questa terra e che in quel momento ci serviva. sostenendoci per tutta la vertenza con atti concreti e partecipando alla fiaccolata per la non chiusura del sito in migliaia di persone che ricorderemo come lavoratori per tutta la vita. Infine la politica, non ho prove a dirvi che purtroppo, come molti altri cittadini, mi sono disaffezionato da alcuni partiti politici che in passato rappresentavano i lavoratori e che oggi sono un po' distanti. Però in questo cammino mi sono anche ricreduto, perché ho conosciuto persone come il sindaco di Crevalcore, Marco Martelli, che con il PD di Crevalcore, Rifondazione Comunista di Bologna, oltre a schierarsi al nostro fianco da subito, ci hanno messo in condizione di giocarci la nostra partita della dignità. Una partita difficile contro un gigante che si chiamava Marelli, mettendoci a disposizione la tensostruttura che ci ha riparato dal sole, ci ha protetti dalla pioggia ed ha attenuato il freddo di notte. Infine, abbiamo conosciuto anche due grandi politici come l'assessore Colla e il presidente della regione Bonaccini, che in sede regionale hanno difeso i lavoratori e il lavoro, facendomi sentire fiero di essere un lavoratore e cittadino dell'Emilia Romagna. Tutto questo ha contribuito a trovare quell'alternativa alla chiusura, a una chiusura dello stabilimento che il 19 settembre sembrava impossibile. Infatti, dopo questi determinatissimi 45 giorni di blocco, in sede regionale l'azienda dichiarava di aver trovato degli imprenditori interessati all'acquisto dello stabilimento. Questo è stato il primo momento in cui noi tutti abbiamo cominciato a pensare che lo stabilimento potesse continuare a produrre. Infatti a gennaio si sono materializzati due interessamenti ufficiali. Dopo aver ascoltato i progetti industriali, siamo arrivati nel mese di marzo alla proposta vincolante d'acquisto del sito da parte di Tecnomeccanica di Novara. Mimmo, insomma, abbiamo capito che la situazione è veramente un grande successo. Quello che avete fatto, la vostra battaglia, può diventare un punto di riferimento per tutti i lavoratori. Sinceramente io avevo fiducia in voi, sapevo che c'era stata ho visto, insomma, che c'erano delle condizioni che vi permettevano di trovare una soluzione rispetto ad alcune vertenze che purtroppo non sono finite bene. Quello che adesso che ti chiedo è capire nel passaggio se ci saranno dei lavoratori che non troveranno non troveranno posto nella nuova società. Se avete pensato di risolvere questo problema e soprattutto cosa andrete a fare, lo sviluppo del prodotto, se c'è un piano industriale, se state già discutendo di questo, che poi è la cosa più importante, perché insomma sappiamo benissimo che il rischio più grosso sono i cavalieri bianchi. Non credo che in questo caso si parla di cavalieri bianchi. Chi vi ha acquisito comunque faceva un prodotto simile al vostro e insomma è un prodotto sempre del vostro settore, dell'automotive, insomma siete a buon punto, non stiamo parlando molto probabilmente di un cavaliere bianco, ossia quelle persone che acquistano le aziende per poi, come è successo a Poveretti, la GKN con Borromeo. Non è, penso, che il vostro caso, però spiegaci un po' questo passaggio, se ci saranno delle problematiche legate all'occupazione e ai prodotti. Per quanto riguarda il piano industriale, la scelta che anche noi come sindacato abbiamo perseguito optando per Tecnomeccanica di Novara è stata perché le lavorazioni ed i prodotti che questa azienda produce si sposano meglio con la nostra tipologia di produzioni. Infatti parte della produzione esistente rimarrà in essere con un ampliamento di prodotti che Tecnomeccanica porterà in dote, come i dissipatori, i cover per centraline o box batterie e centri di lavorazione dei prodotti presso Fusi. Sicuramente sulla carta si sono presentati bene. Poi, oltre ai buoni propositi, esiste anche un elemento di garanzia rappresentato da Invitalia, che sarebbe l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che entrerà nell'operazione finanziandola e quindi sarà socio di Tecnomeccanica. Per quanto riguarda il piano sociale, quindi 229 lavoratori dello stabilimento, posso dirvi che abbiamo perseguito un accordo che mette al centro il lavoro e tranquillamente posso confermare che nessuno dei lavoratori verrà lasciato indietro, in quanto abbiamo firmato un accordo con Marelli sul piano sociale che trova una soluzione per tutti. L'accordo prevede che un minimo di 152 lavoratori saranno assorbiti dalla nuova azienda, quindi da Tecnomeccanica. Per il rimanente numero ci sarà, solo su richiesta personale, la possibilità di essere trasferiti con incentivazioni presso altri stabilimenti italiani di Marelli, tra cui Bologna, Corbetta, Tolmezzo e Caivano. Oltre a questo si farà ricorso allo strumento di isopensione che permette ai lavoratori di poter lasciare il posto di lavoro 7 anni prima della maturazione pensionistica e solo in caso questi due strumenti non riescono a chiudere il cerchio esuberi si farà ricorso all'incentivo all'esodo, sempre e solo su richiesta personale. Terza e ultima domanda, Mimmo, io vorrei che tu facessi un primo riassunto delle paure, delle difficoltà che avete avuto, soprattutto in alcuni momenti, ma soprattutto che tu facessi un appello alla lotta, a tutti quei lavoratori che in questo momento sono in difficoltà. Ricordo a tutti quanti che il 18 maggio ci sarà una manifestazione a Firenze da GKN, che poveretti sono ancora in una situazione molto molto brutta, in cui lì veramente chi li ha acquisiti in realtà vuole smantellare tutto il sito e fare speculazione molto probabilmente, non ha nessuna intenzione di continuare la produzione, ma soprattutto un appello a tutti quei lavoratori che oggi sono davvero in difficoltà e che un appello che sproni i lavoratori a lottare e dai una soluzione che ti dia fiducia ai lavoratori per la battaglia che avete fatto e soprattutto per le battaglie che ci saranno nel futuro. Questo che ti chiediamo, un appello che ci dia speranza, e ti ringraziamo Mimmo della tua disponibilità. Guardate, è difficile narrare quello che ci è successo in tutti questi mesi in modo da farvi capire le difficoltà, i sacrifici, le litigate, i malumori, le turbulenze giornaliere che ci hanno attraversato in questi mesi, e quindi cercherò attraverso dei titoli giornalieri di quello che avveniva nella giornata, di raccontarvi il vissuto dei giorni più significativi dei primi 90, dove ci sono stati giorni dove è montata la rabbia, l'incredulità, la disperazione, l'attesa per il grande incontro in regione, la politica regionale e nazionale che è venuta a sostenerci, l'onore di aver incontrato i lavoratori della Saga Coffee, esempio di resistenza, la fiaccolata di un intero territorio per tenere aperta un'azienda con i suoi lavoratori, il primo viaggio a Roma al Ministero del Made in Italy con 120 lavoratori urlanti a seguito, 2 giorni dopo di nuovo a Roma in corteo per la Via Maestra con Landini, gli anonimi benefattori che ci hanno donato 300 euro per aiutarci a resistere senza farsi conoscere. Il giorno che siamo arrivati a Detroit tramite il nostro segretario nazionale della Fiom de Palma. L'inverno alle porte e noi pronti a resistere. La solidarietà dei lavoratori francesi in chiusura. Le trasmissioni televisive. Il bivio. Guardate, questa è stata l'assemblea più difficile della mia vita sindacale, dove discutevamo dell'allentamento delle merci a fronte dell'interessamento di imprenditori. Il giorno della resistenza, le lotte in comune con la ex Saeco e la Perla Bologna, l'audizione in giacca e cravatta a Palazzo Madama, il professor Paella che ci ha deliziato il palato, la pace per il conflitto ucraino-russo, la roadmap e quindi la definizione del percorso per il nuovo imprenditore. L'abbraccio dello spì, il giorno del lutto per la prematura scomparsa di un collega, ma soprattutto di un amico. Il giorno degli stracci. Il voto libero alla Marelli di Bologna dopo 12 anni di esclusione dalla FIOM, con una netta affermazione della nostra delegazione. Il lungo silenzio, la chiusura del sito francese di Argentan, il giorno dell'accordo. Tutto questo non sarebbe mai accaduto se non fosse stato per la determinazione che i lavoratori della Marelli, insieme ai lavoratori e delegati di altre fabbriche, con l'aiuto di un'intera comunità e della politica regionale, in modo univoco non avessero fatto squadra, difendendo il lavoro e i lavoratori. Certo, quello che noi lasciamo ai lavoratori è questo sistema vincente, che sindacato, territorio e politica insieme devono adottare di fronte ad annunci di chiusura o delocalizzazioni degli stabilimenti, perché tutti gli imprenditori che sono o vengono ad aprire le loro attività in Emilia-Romagna devono capire che il sistema non gli permetterà mai di chiudere gli stabilimenti, ma al massimo di riconvertirli o reindustrializzarli. A tutti i lavoratori in ascolto posso dire, perché l'ho provato sulla mia pelle, chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Grazie a tutti. But you might not think it.